asciugherà ogni lacrima. Leggo nella Bibbia, in Apocalisse 7, versetti 16 e 17. Non avranno più fame e non avranno più sete. Non li colpirà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pascerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Ancora in Apocalisse 21, 4. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Le lacrime fanno parte della nostra vita. C'è chi ne ha versate di più, chi di meno, ma ogni essere umano si è trovato nella sua vita a doverne versare. Certo, ci sono anche lacrime di gioia, ma spesso le lacrime sono associate a momenti tristi della nostra vita, momenti in cui abbiamo ricevuto brutte notizie, momenti in cui abbiamo visto cose che non avremmo voluto vedere, momenti in cui abbiamo sofferto fisicamente, momenti in cui siamo stati maltrattati o traditi. Sono veramente tanti i motivi per cui ognuno di noi si è trovato a versare delle lacrime. Trovo davvero consolante il fatto che nell'ultimo libro della Bibbia, l'Apocalisse, per ben due volte è ribadito che nel mondo a venire, quando Dio farà nuovi cieli e nuova terra, Dio asciugherà ogni lacrima. Nel verso del capitolo 7, Giovanni nella sua visione vede tantissime persone che hanno sofferto molto, essendo state perseguitate e uccise in un periodo della storia chiamato Grande Tribolazione. Questo si può leggere in Apocalisse 6,11 e in Apocalisse 7,14. Giovanni vide tutte queste persone vestite di bianco, simbolo della purificazione che avevano ricevuto attraverso la loro fede in Gesù Cristo, che aveva dato la sua vita per loro. Quelle persone erano state fedeli a Dio anche nella sofferenza, e ora Dio stesso si prendeva cura di loro, asciugando ogni lacrima dai loro occhi. Nel capitolo 21, poi, Giovanni vide i nuovi cieli e nuova terra che Dio aveva creato per stare per sempre con coloro che avevano creduto e gli erano stati fedeli. Anche in quel caso è ribadito che Dio asciugherà ogni lacrima. Dio conosce bene la sofferenza dell'uomo e sa che ogni persona desidererebbe un mondo in cui non ci fossero lacrime, non ci fosse dolore, non ci fosse morte. Per questo motivo, quando studiamo il libro dell'Apocalisse, che ci mostra come sarà la vita eterna, una delle caratteristiche che Dio mette in evidenza è che Egli asciugherà ogni nostra lacrima. Non soffriremo più. Tante volte vorremmo che Dio impedisse che ci siano occasioni di versare delle lacrime, ma la vita su questa terra, tra le altre cose, è fatta anche di lacrime. Le lacrime ci ricordano che viviamo in un mondo rovinato dal peccato, un mondo in cui le cose non sempre funzionano come noi vorremmo, un mondo in cui c'è dolore e ingiustizia. Dio sa che la tua vita può essere molto difficile, Dio conosce tutte le lacrime che hai versato, ma ti ha anche promesso che un giorno Egli asciugherà ogni lacrima dai tuoi occhi. Aspettiamo insieme con ansia il giorno in cui questo avverrà, e nel frattempo, per quanto ci è possibile, ci consoliamo gli uni gli altri. Forse non possiamo impedire che un altro versi delle lacrime, ma possiamo almeno fare un pezzo di strada insieme.